in primo piano. I quotidiani adesso. E allora la politica Monti, tagliare le tasse di un punto, e questo è il titolone di stamane di Repubblica. Con il 2013 spunta la Tares, il peso dell'erario a livello record del 45,3%. Intanto un coro di sì al discorso del capo dello Stato, ovviamente al discorso di fine anno. Il problema della pressione fiscale, il Quirinale dice questione sociale al primo posto. Facciamo una veloce visione d'insieme, appunto, effetto campagna elettorale e discorso del Presidente della Repubblica. Questa era appunto Repubblica per il giornale. E Napolitano torna alla prima Repubblica per far fuori la destra, così il commento, l'introduzione, il titolo a introduzione del commento di Vittorio Feltri. La strategia del Colle viene indicata, e a tutta pagina: da oggi siamo più poveri, questo è il buon anno dei professori agli italiani. La vera eredità dei tecnici, scrive in prima pagina Alessandro Sallusti, la vera eredità dei tecnici con l'arrivo del 2013, ecco una giungla di nuove tasse su case, rifiuti e consumi, sarà una mazzata, vi spieghiamo come diffondere i vostri risparmi. E Berlusconi, citato, l'avete sentito, ha parlato anche e con il nostro Paolo Panceri nell'intervista che abbiamo mandato in onda durante il giornale radio. Monti, un liderino, io riempio le piazze, il tentativo della rimonta. Visto invece dalla prospettiva dell'Unità, prima la questione sociale, l'apertura a tutta pagina, Napolitano, tutelare il lavoro e i più deboli, rammarico per le riforme mancate. Ma anche nella pagina centrale, l'onda lunga delle primarie, PD, tutti i voti delle primarie, giovani e donne al comando, e il commento firmato da Sara Ventroni che dice: è stata una vera e propria rivoluzione. 2013, rincari subito per strada, questo è il titolo con cui la Padania apre invece oggi nel suo primo numero del 2013. Monti dice, appunto, la Padania lancia il suo non partito, evita di rispondere alle accuse di Berlusconi e alle domande di Bersani, i suoi ex sostenitori nella strana maggioranza, invece si butta a capofitto in una campagna elettorale in pieno stile 2.0. Così Mario Monti sceglie infatti la rete per cercare di convincere un'opinione pubblica ferita dai provvedimenti del suo governo. Queste le prime righe del commento di Alessandro Montanari. Ecco, naturalmente la politica domina, la campagna elettorale di fatto entra nella sua fase matura verso le elezioni di febbraio. Poi ci sono i grandi temi dell'economia, quelli che di fatto ci accompagnano e ci hanno accompagnato nel corso non solo dell'ultimo anno. Come vi dicevo, il Sole, fiscal cliff, più tasse oltre i $400,000, maratone polemiche alla Camera. Beh, io direi allora su questo di sentire subito un commento che ci ha postato pochi momenti fa il nostro Mario Platero dagli Stati Uniti, una riflessione su queste giornate. Di fatto è una settimana che ci occupiamo di questo tema. Barack Obama porta a casa un'intesa, questo è un fatto, le concessioni ci sono state, poi avremo anche modo di valutare appunto quale sarà poi il fatto, di fatto il prezzo politico che Obama paga a questo risultato. Sentiamo allora Mario Platero. Beh, Gigi, sì, devo dire è stato un primo dell'anno piuttosto complesso, una battaglia politica durissima, quella che abbiamo visto ieri notte alla Camera, ieri in giornata devo dire alla Camera, dopo l'esperienza che abbiamo avuto il giorno prima al Senato. Ma alla fine tutto si è chiuso per il meglio, diciamo come voleva la Casa Bianca, cioè la Camera è riuscita a mettere insieme la maggioranza necessaria, 257 voti favorevoli contro 167 voti contrari, per poter approvare il compromesso che era stato raggiunto al Senato senza apportare alcuna modifica. Ecco, questo sembrava impossibile fino a un'ora prima del voto, perché Eric Cantor, il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, aveva organizzato una ribellione contro il suo compagno di partito, il presidente della Camera, John Boehner, e aveva detto che sarebbe stato assolutamente imperativo ottenere delle concessioni da parte dei democratici e ottenere un impegno per dei tagli alla spesa. Ecco, Cantor non è poi riuscito a ottenere quella maggioranza di cui lui stesso aveva bisogno per poter approvare un emendamento e rimandare dunque il progetto indietro al Senato, e dopo un periodo, devo dire, piuttosto difficile, teso, in cui sembrava che tutto potesse saltare, alla fine Boehner e la sua collega, il capo della maggioranza democratica Nancy Pelosi, sono riusciti a organizzare una riunione del Parlamento, a riconvocare la Camera per votare sì o no. È stato un voto, devo dire, molto drammatico, ma alla fine è passato. Il fiscal cliff dunque è evitato. Insomma, l'accordo è stato raggiunto. Naturalmente ci sono dei punti, e sono anche numerosi, che restano aperti. Intanto questo cliff dunque viene gestito di fatto dalla politica americana. Forte anche l'impatto psicologico, anzi era, diciamo, considerato forte l'assenza della capacità del governo e del Parlamento degli Stati Uniti di arrivare alla chiusura del cerchio di questa questione. Intanto, come ci ricorda oggi il Sole 24 Ore nelle pagine dedicate, nei grandi approfondimenti dedicati alle sfide del 2013, l'intesa per scongiurare il fiscal cliff aggiungerà 3.967 miliardi di dollari alla montagna del debito pubblico, ora quota 16.400 miliardi nei prossimi 10 anni. Così l'analisi del Congressional Budget Office, l'agenzia federale che analizza gli effetti delle leggi approvate sull'economia statunitense. Insomma, il provvedimento può portare dunque ad annullare gli elementi recessivi, i 600 miliardi di dollari di trattagli alle spese e aumenti fiscali che sarebbero invece entrati in vigore automaticamente in mancanza di un accordo. Questo è il senso del risultato ottenuto, come abbiamo sentito anche grazie all'ultimo aggiornamento dagli Stati Uniti di Mario Platero. E tornando ai grandi temi delle sfide del 2013, proprio pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore oggi sono dedicate a questo. Quindi da una parte Angela Merkel, la crisi resta, il 2013, dice, sarà peggio, ma anche, come dire, il tema un po' della speranza accanto ai sacrifici. Da questo punto di vista sono rappresentati da un tricolore che non è quello italiano ma è quello irlandese, l'Irlanda che assume, e è un meccanismo automatico come sappiamo, la presidenza semestrale dell'Unione. Irlanda dal salvataggio alla rinascita, il paese assume la presidenza dell'Unione Europea nell'anno in cui vuole tornare a finanziarsi sui mercati. Michele Pignatelli ci racconta appunto di un Irlanda che può fornire speranza e aspirazione all'Europa, così sostiene Gavin Barrett, il professore di diritto comunitario alla University College di Dublino, e in queste parole c'è forse la sintesi dello stato d'animo con cui il paese assume la presidenza dell'Unione Europea. Un semestre in cui le sfide dell'Eurozona, impegnata a mettere a punto una nuova architettura istituzionale in grado di contrastare la crisi del debito e prevenire rischi futuri, si intrecceranno con quelle dell'Irlanda. L'Irlanda completare il percorso, questo suo obiettivo, percorso di risanamento, uscire dall'ombrello protettivo offerto dai creditori internazionali, tornando a finanziarsi autonomamente sui mercati. Nel taglio basso anche un intervento del vice premier, ministro degli affari esteri irlandese Eamon Gilmore, che dal titolo dice: i nostri sacrifici sono stati premiati, abbiamo compiuto sforzi enormi per ridare stabilità all'economia e ora puntiamo e torniamo a crescere. Nella stessa pagina vi segnalo, abbiamo parlato fin dalle prime ore di questo 2013 anche della posizione britannica, abbiamo visto come diciamo la posizione di Londra rispetto al percorso dell'Unione fosse progressivamente, sia diventata progressivamente sempre più faticoso. Le vicende politiche interne hanno anche portato spesso dei leader a paventare uscite, accordi parziali, nuove forme di partecipazione al processo dell'Unione. Bene, arriva dal Regno Unito un appello delle imprese in un articolo a firma di Nicole dell'Innocenti. Leggiamo: se la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea sarà relegata ai margini dell'economia e del commercio globali. Questo è il monito a chiare lettere della Confindustria britannica al governo di David Cameron. Nel messaggio di inizio anno la Confederation of British Industries avverte che restare al tavolo europeo è l'unica strada verso la crescita e verso la crescita e fuori dalla crisi. Questo per quanto riguarda il Regno Unito, le isole britanniche e d'Irlanda, che vengono raccolte in una parte di questo approfondimento oggi sul Sole 24 Ore. Non solo questi temi, anche le pensioni, i cambiamenti, le novità su pensioni e conti correnti, ma anche la storia di un anno di governo, dallo spread ai costi della politica. Dunque, parlavamo di semestre irlandese, di Regno Unito e della richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali di restare saldamente al tavolo dell'Unione e delle sue trattative per un semestre irlandese di guida dell'Unione. E c'è anche l'assunzione invece della guida del G8 da parte proprio di David Cameron, che abbiamo citato, una nota pubblicata nelle ultime ore. Cameron, presidente di turno del G8, chiede ai responsabili delle otto principali economie di adottare decisioni coraggiose per rilanciare la crescita globale. Insomma, anche lui su questo giusto, doveroso tasto. Poi però bisogna passare ai fatti. Corriere della Sera: la politica non è solo numeri. La vignetta che troviamo a centropagina, a firma di Giannelli, è lo sconcerto di Capodanno. C'è un presidente della Repubblica in versione direttore d'orchestra che dirige quella che, per quanto muta la vignetta sia, è evidentemente una cacofonia di suoni rappresentata poi dalla intera classe politica italiana che... piuttosto che suonare, in questo caso se le dà di santa ragione. Ma segnaliamo tra le letture di questa mattina, restando proprio sul Corriere della Sera, un interrogativo che è, come dire, quasi ricorrente sul dove meglio nascere. Beh, nel 2013 è meglio nascere in Svizzera, classifica in base a soddisfazione e felicità la Svizzera. Leggiamo appunto sul taglio basso del Corriere della Sera in prima pagina questa mattina: il posto migliore in cui nascere nel 2013. Si affiancano Australia, Norvegia, Svezia, Danimarca. Sono i primi cinque paesi indicati dalla società di analisi inglese dell'Economist Intelligence Unit per capire dove quest'anno valga la pena mettere al mondo un figlio. Non miti come gli Stati Uniti per molto tempo il posto più promettente per nascere, sono però una lente interessante per fotografare il mondo di oggi. Infatti, noiosa quanto volete, scrive Danilo Taino, la Svizzera comunque il posto migliore in assoluto. Lo stesso vale per appunto i paesi del nord citato. La società di analisi del gruppo londinese ha incrociato un'indagine sul grado di soddisfazione e di felicità degli abitanti con i dati oggettivi di 80 paesi. I dati oggettivi sono l'ambiente, la salute, il reddito, la geografia, il tasso di criminalità, il debito pubblico, che ovviamente i nati del 2013 trovano come una sorta di non richiesto regalo. Insomma, ne risulta una classifica che descrive quanto vi abbiamo sintetizzato. L'Italia, a prima vista, l'Italia non si piazza male, al 21esimo posto, meglio del Giappone, della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna. A ben vedere, però la collocazione, per collocazione geografica, clima, bellezze naturali, patrimonio culturale, la penisola dovrebbe essere il sogno di ogni genitore, più di un paese freddo del nord o di una terra australis con poca storia, i soliti limiti che ci fanno precipitare nelle classifiche, vien da pensare burocrazia, inefficienza pubblica, corruzione, cattiva politica, il che è vero ma non del tutto. Al lavoro c'è anche una rivoluzione dei valori che riguardano la qualità della vita, non più eurocentrica e paesaggistica, ma legata alla sicurezza del futuro, alle opportunità di studio, di crescita, di occupazione. E qui dunque i genitori del 2013 scelgono la Svizzera. E torniamo ad altri temi che troviamo ampiamente raccontati sulle pagine dei quotidiani. Dal secolo XIX, quindi la Liguria in primo piano, il rapimento calevo, libero grazie ad un'impronta. L'errore fatale, la traccia sulla richiesta di un riscatto, il capobanda già schedato per una condanna. Calevo intanto è a casa, ho tentato di farmi trovare con una lettera. Quattro i rapitori arrestati, uno in fuga, e a quanto pare è proprio dalle notizie delle ultime ore l'inchiesta coinvolgerebbe un numero maggiore di persone. A questo proposito invece La Stampa di Torino dedica a questo tema, a questa vicenda, dedica un fondo che intitolato L'armata Brancaleone che sognava i milioni. Marco Neirotti scrive: se non fosse stata in pericolo grave la vita di Andrea Calevo ci sarebbe da ridere. Da un lato il cocktail di arroganza e puerile sicumera dei balordi riuniti in banda, che poteva in qualunque momento precipitare in un gesto irreparabile. Dall'altro la faciloneria del loro agire, paragonabile oltre che alla banda Bassotti o all'armata Brancaleone, ai due protervi e instancabili cattivi di Mamma ho perso l'aereo. Ecco dunque il rapimento che anche per La Stampa, o meglio la soluzione positiva di questa vicenda, che anche per La Stampa è l'apertura, l'immagine principale di questo primo numero del 2013. Naturalmente lo spazio è anche, come avete capito evidentemente per tutti i quotidiani, sul commento ormai a distanza di qualche ora, di 48 ore, sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica e l'appello di Napolitano, dunque crisi grave, tutelate i più deboli. Ecco, ci porta anche un colore invece la prima della Stampa, verde smeraldo, il colore del nuovo anno. Il verde è eletto colore dell'anno da una giuria di designer e VIP di tutto il mondo. Ecco, dunque, verde 2013, questo ci racconta questa mattina La Stampa. E invece, a proposito di ottimismi ma anche di sacrifici, come abbiamo sentito in particolare dalle voci irlandesi raccolte oggi sul Sole 24 Ore, dunque aspettative che ai sacrifici corrispondono infine dei risultati, oggi sul Manifesto un commento a firma di Ignacio Ramonet, storico direttore di Le Monde Diplomatique, insomma una voce europea. Il titolo è 2013 altro che i Maya. Se guardiamo in questo inizio d'anno una mappa del pianeta, immediatamente notiamo vari punti con luci rosse. Quattro di queste rappresentano livelli di rischio particolari: l'Europa, l'America Latina, il Medio Oriente e l'Asia. Nell'Unione Europea l'anno 2013, scrive Ramonet, sarà il peggiore dall'inizio della crisi. L'austerità come unico credo, i colpi di scure sullo Stato sociale continueranno, perché questo esige la Germania, che domina per la prima volta l'Europa e la dirige con mano di ferro. Berlino non accetterà alcuna modifica fino alle elezioni del 22 settembre, in cui la cancelliera Angela Merkel potrebbe essere eletta per un terzo mandato. Poi ci sono le tensioni politiche in Spagna. In Italia, scrive Ramonet, le prossime elezioni e dalle reazioni dei mercati ad un'eventuale vittoria del conservatore Monti o del candidato del centro-sinistra Bersani in una posizione migliore dei sondaggi, si leggerà anche una parte, ecco, di questo mosaico europeo. Così Così Ramonè, che dice: per non parlare poi delle proteste che continuano a diffondersi come la benzina e che finirà per venire a contatto con un fiammifero acceso. Insomma, un Ramonè decisamente in altra linea questa mattina nel commento sul Manifesto. Il titolo del quotidiano è Previsioni del tempo, buongiorno 2013. Ecco, abbiamo citato la Svizzera, mentre di nuovo la ritroviamo su Italia Oggi, ma è un'Europa contro la Svizzera. Semeta, il commissario alla fiscalità, annuncia a Italia Oggi un'azione fiscale comune sui risparmi europei custoditi a Berna. Un tema anche questo ricorrente negli ultimi tempi per questioni diciamo di posizionamento anche della Confederazione Elvetica all'interno degli accordi con l'Unione Europea e naturalmente per questioni puramente di soldi. La necessità di un mandato a negoziare con la Svizzera dell'Unione Europea e non dei singoli stati, con l'avvertimento per Austria e Lussemburgo di togliere il veto che impedisce nei fatti un accordo fiscale comune. Approvazione delle direttive a risparmio in tempi brevi, nessuna concessione alla pianificazione fiscale aggressiva di multinazionali estere in Europa. Sono questi gli obiettivi dell'agenda fiscale dell'Unione Europea per l'anno appena annunciato, per l'anno appena iniziato, annunciati da Algirdas Semeta, il commissario europeo alla fiscalità. Bene, l'Europa dunque in tante diverse declinazioni. Nella nostra visione dei quotidiani, mentre abbiamo fatto le 7:43 minuti, tra un paio di minuti, non di più, sentiremo se le cose, appunto, nell'ultimo aggiornamento abbiamo sentito che ci sono dei problemi sulla viabilità ordinaria, sentiremo come gli sviluppi appunto di questa notizia, ma ancora le prime pagine. Il giorno 2013, ecco le nuove tasse, dunque un elenco che riguarda i rifiuti, le case all'estero, la finanza, ma per il Messaggero invece, oltre al titolo dedicato a Monti, tasse giù di un punto, vi segnalo dalla prima pagina un servizio su controlli su conti e spese, così Serpico trova chi evade. Conti correnti senza più segreti per il fisco, il super cervellone Serpico, un computer in grado di elaborare migliaia di informazioni al secondo, metterà con le spalle al muro gli evasori. Questo dunque l'incipit di un articolo che spiega: potrà infatti confrontare i dati sulle spese, quelli sulle utenze, con i movimenti bancari, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi e con tutte le altre informazioni contenute dalle banche, dati online, dal catasto, dall'INPS. Impossibile, dice e sostiene appunto questa mattina nell'articolo Il Messaggero, è impossibile sfuggire alle verifiche che saranno indirizzate verso le categorie considerate a rischio maggiore. Questo per Il Messaggero. E invece ancora un paio di segnalazioni dal Fatto Quotidiano, che affronta il tema delle primarie, ma con delle primarie del PD, quindi con approccio differente. Il titolo è: PD, volti nuovi e impresentabili, le primarie premiano molti giovani e alcuni fuori linea, da Civati a Renziano Ricchetti alla idem alla precaria Cominelli, ma tornano pure gli inquisiti e i condannati, i ras delle tessere e i conflitti di interessi. Così scrive il Fatto Quotidiano: Crisafulli, Papania, Genovese, Oliviero in Calabria, la Brembilla in Lombardia. Insomma, primarie viste dal Fatto Quotidiano oggi in edicola, le primarie del PD sono sì dei volti nuovi ma anche degli impresentabili. Infine l'Avvenire che il quotidiano dei Vescovi come sempre dedica spazio ampio, da una parte appunto agli interventi diciamo di inizio anno, di fine anno di Benedetto XVI, ma mi riferivo in particolare invece all'attenzione per i temi internazionali e in questi giorni riguarda soprattutto la mobilitazione per la cristiana accusata di blasfemia che rischia la pena capitale in Pakistan. Bibi Asia, dunque, Bibi, l'Italia pressa il Pakistan, passo diplomatico del ministro Terzi per la revoca della condanna a morte. Asia dunque, Bibi, l'Italia preme sul Pakistan, su questo articolo che sono ora passato all'approfondimento nelle pagine interne di Avvenire. Di Avvenire questa mattina in edicola, 100 milioni di perseguitati, denuncia il cardinale Bagnasco, 100 milioni di cristiani nel mondo, la libertà di religione è l'indicatore cruciale dello standard di tutela dei diritti fondamentali della persona, da questa convinzione profonda espressa nuovamente ad Avvenire scaturisce l'impegno del ministro degli esteri Giulio Terzi in favore di Asia Bibi, la 46enne cattolica condannata a morte senza prove per blasfemia e rinchiusa nel carcere pakistano di Sheikhupura. Il capo della diplomazia italiana ha dato istruzione all'ambasciata Islamabad di effettuare un intervento presso le autorità pakistane e ha sottolineato la forte aspettativa del governo. L'auspicio finale resta quello della revoca quanto prima della sentenza capitale nei confronti delle donne. Non stupisce trovare nella pagina accanto del quotidiano appunto dell'Avvenire un ampio approfondimento dedicato invece alla Nigeria. Il tema evidentemente resta quello della violenza di matrice religiosa. 15 fedeli, ricorda Avvenire, uccisi, colpiti in una chiesa a Chibok, altri 15 sgozzati nel sonno a Musari. E un'intervista a uno di quelli che sono stati, che ha fatto parte della leadership nigeriana appunto di questi anni, Occhiolare Mubasancho, che dice: vogliono creare la nuova Somalia. A questo proposito ci sono anche delle notizie proprio in queste ultime ore di una violentissima operazione dell'esercito della Nigeria. Le agenzie infatti raccontano di 13 presunti membri del gruppo terroristico islamico Boko Haram uccisi in uno scontro a fuoco con l'esercito nigeriano nella località di Maiduguri nell'angolo nord-orientale della Nigeria, verso il confine con il Camerun, considerato appunto il caposaldo, una città nella polvere al confine tra tre nazioni, soprattutto aperta sul deserto, che la rende da molti anni un vero e proprio porto nella sabbia dei traffici internazionali e negli ultimi anni è diventato una vera e propria quartier generale di molte forme di violenza. Dalle pagine internazionali, per concludere un po' su questo fronte delle crisi, vi voglio segnalare anche dal Foglio quotidiano, che oggi racconta sulle appunto le pagine dirette da Giuliano Ferrari del lento collasso di Damasco, operazione discreta della CIA dentro il regime di Assad. Il portavoce del governo siriano dice: ora è in America, collabora con l'intelligence su come funziona il potere in Siria. Vi ne leggo solo un breve passaggio. Il Washington Post ha sentito alcuni uomini dei servizi segreti dei paesi medio orientali in contatto con i disertori siriani per fare il punto sul presidente Assad. Viene raccontato in questo modo: vive in un costante stato di paura, dorme ogni notte in un letto diverso, fa assaggiare il cibo, non esce alla luce del giorno per il timore dei cecchini, si sente isolato, ha abbandonato ogni tentativo di incoraggiare i sostenitori con apparizioni pubbliche, si concentra sulla sua sicurezza personale, ma lui e i suoi consiglieri non sono comunque disposti a scendere a un compromesso. E questo dunque induce a pensare che questa ormai quasi biennale tragedia di lacerazione dello Stato siriano appunto non sembra essere diciamo avviata a conclusione, almeno non per l'accesso a un processo e a una trattativa, quella trattativa da cui invece siamo partiti questa mattina con la nostra rassegna stampa su ben altri fronti, quando parlavamo appunto di quelli americani. Ecco, questo così alcune delle principali testate che trovate oggi in edicola, ma gli spunti sono naturalmente molti altri. Allora, vi segnalo una notizia che troviamo nelle pagine, una doppia notizia in realtà, che troviamo nelle pagine interne di Repubblica questa mattina. Da un lato riguarda infatti gli sfratti record, ora rischiano in 125.000. Nei prossimi mesi infatti 125.000 famiglie rischiano lo sfratto per morosità e entro i prossimi 3 anni altre 150.000 potrebbero perdere la loro abitazione. A lanciare l'allarme CGIL Sunia, la legge prevede solo la proroga degli sfratti per anziani, portatori di handicap, malati terminali, denuncia Sunia. Non risolve il dramma delle morosità incolpevoli causate da spese dell'abitazione ed affitti insostenibili, magari da disoccupazione e da cassa integrazione. Negli ultimi 5 anni sono stati emessi almeno 290.000 provvedimenti di sfratto, di cui 240.000 per morosità, e ne sono stati eseguiti, pensate, 140.000, di cui 100.000 per morosità. Tema casa, ma con tutt'altro approccio, è invece nella stessa pagina, appunto, del quotidiano, quello che racconta di come chi può continua ad acquistare all'estero. I ricchi del nord emigrano in Svizzera, eccola di nuovo, la terza volta oggi che incrociamo il nostro vicino del nord. Dicevo, i ricchi del nord emigrano in Svizzera, comprano casa e spostano la residenza, ma il boom di acquisti riguarda anche il Brasile, dove già è effetto mondiali di calcio, e poi chissà, sarà effetto giochi olimpici, visto che seguono a breve distanza. Ecco, gli acquisti invece negli Stati Uniti hanno registrato un'ulteriore contrazione, gli affari conclusi rappresentano il 15% dello stock complessivo delle compravendite rispetto alle punte del 27% delle famiglie che decidono di trasferire la residenza, mentre gli Stati Uniti perdono un po' di appeal, in crescita i flussi verso la Germania, che rappresenta il 5% del totale degli acquisti immobiliari all'estero, con una forte concentrazione di interesse proprio su Berlino, sulla capitale. Tra le famiglie che cercano seconda casa a prezzi convenienti aumenta l'interesse per la Spagna, dove lo stock di invenduto ha raggiunto livelli molto elevati, garantendo ai compratori ampi margini. E poi anche la Grecia, anche se in lieve calo, dove il crollo dei prezzi attira gli interessi degli investitori. Insomma, cosa comprare in questi importi potendo farlo? La tabella descrive una crescita che va dal Brasile, appunto, alla Turchia, alla stessa vicina Croazia, che a luglio entra nell'Unione Europea, ma anche Atene è naturalmente un grande classico degli italiani, a Parigi. 7.55, ho ancora il tempo per segnalarvi un'altra novità che davvero potrebbe avere il sapore di una svolta. Auto elettrica, riguarda l'auto elettrica, dunque i trasporti, la svolta in fila dal benzinaio per il pieno di corrente. Ecco, sembra per certi versi un po' l'uovo di Colombo, è stato tante volte si è dibattuto anche in grandi congressi su come fornire la logistica per permettere finalmente all'auto elettrica di decollare. Beh, questa storia che racconta di un accordo tra i due colossi italiani dell'elettricità e del petrolio, Enel ed Eni, un accordo che, racconta Vincenzo Borgomeo, verrà ufficializzato tra qualche giorno. Per la prima volta a livello mondiale un petroliere e un fornitore di elettricità hanno siglato una collaborazione che porterà a una diffusione mai vista delle colonnine di ricarica, e soprattutto le colonnine a questo punto sembrano destinate ad entrare nei luoghi, diciamo, che siamo abituati a frequentare, quindi di fatto i benzinai. Probabilmente al vero anno zero per l'auto elettrica, ecco, potrebbe essere questo, fino ad oggi tormentata da enormi problemi di infrastrutture e ricarica, ma anche da una legislazione ostica, dalla mancanza di incentivi, da costi improponibili. Trovare la colonnina di ricarica accanto a quello che distribuisce gasolio e benzina garantirà all'automobilista la certezza di poter continuare il suo viaggio. Certo, una bella trasformazione, chissà che sia davvero questo l'inizio di una trasformazione della mobilità nelle nostre città e non solo. Bene, 7.57, 30 secondi, ci salutiamo, aggiornamenti da GR24, noi torniamo insieme a partire dalle 8.15 circa.